Un salutone a tutte e tutti e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata di Passaggio a Nord-Ovest, la rubrica di Radio Wombat che parla appunto di quello che accade nel quadrante nord-ovest della città e ne parla ascoltando, intervistando e sentendo le voci di chi in questi quartieri, in queste zone ci vive e ci lavora. E per Passaggio a Nord-Ovest chiaramente non ci fermiamo al confine di Firenze, ma per quanto ci riguarda è il nord-ovest della metropoli e quindi la Piana e oltre. Un'introduzione necessaria perché appunto oggi abbiamo qui ospite un'insegnante, Francesca, un'insegnante della scuola Datini di Prato. Ma prima di fargli la prima domanda vi diamo indicazioni di quelli che sono i nostri social, il nostro sito e come potete ascoltare questa trasmissione non solo come la state ascoltando adesso, ma in altri modi e scaricare i podcast. Allora, quindi il sito della radio è wombat.noblogs.org, da cui appunto la potete ascoltare in streaming come la state ascoltando adesso, da cui potete anche scaricare i podcast della trasmissione e di tutte le trasmissioni di Passaggio a Nord-Ovest e chiaramente di tutte le trasmissioni di Radio Wombat. È il primo menu a sinistra, un menu a tendina con appena uno ci clicca si apre e in ordine alfabetico ci sono le trasmissioni e conseguentemente cliccandoci ulteriormente sopra il nome della trasmissione potete si apre la pagina dei podcast. Il profilo Twitter della radio è twitter.com/radiowombat.fi, mentre invece la mail per comunicare con noi è postawombat@insiberia.net. Ricordiamo anche che da poche settimane la potete ascoltare, anche se in una forma sperimentale, sull'onde medie, cioè su 1359 AM. E ritornando all'inizio, ritornando alla presentazione, siamo qui appunto con Francesca, una insegnante della scuola Datini di Prato, e appunto gli chiediamo subito una sorta di carta d'identità della sua scuola. Ciao a tutti, ciao a tutte, sono Francesca, insegnante dell'Istituto Datini di Prato, membro della RSU dell'Istituto con il sindacato Unicopas e diciamo che lavoro in questa scuola dal 2004, prima come insegnante precaria, dal 2012 ho conseguito la vincita all'otto, cioè il famoso ruolo. L'Istituto Datini è attualmente un istituto e di Datini non ha più niente perché ormai l'indirizzo economico non esiste più, è stato passato alla scuola accanto, al Dagomari, e la scuola è sostanzialmente un professionale alberghiero al quale da qualche anno, 2 anni per l'esattezza, è stato affiancato l'Istituto Tecnico Agrario. È una scuola che si trova nel cosiddetto polo scolastico di Via di Reggiana, in un quartiere abbastanza disagiato di Prato, cioè noi ospitiamo un'utenza di ragazzi e ragazze che provengono nell'80% dei casi da famiglie con grosse difficoltà economiche. Quante sono gli alunni in totale? Attualmente sono quasi 1300 alunni tra l'istituto alberghiero e il tecnico agrario. Abbastanza, insomma, una scuola grande. È una scuola molto grande e l'istituto alberghiero viene spesso scelto perché si spera che i ragazzi, attraverso questa formazione abbastanza pratica, possano agevolmente inserirsi nel mondo del lavoro. Ed essendo, ripeto, una scuola che accoglie un'utenza che registra sempre più un crescente disagio economico, è una scuola che molto spesso viene scelta proprio per possibili inserimenti futuri nel mondo del lavoro. Purtroppo però la formazione molto spesso non è garantita, perché sempre di più in questa scuola, come in altre scuole, si pensa al denaro che può mettersi in tasca il dirigente scolastico e la nicchia degli adepti del dirigente scolastico. Si fanno progetti per dare fondi sicuramente a grossi vertici della regione, a grossi vertici della provincia, e non si pensa ai ragazzi, non si pensa agli studenti. Prato, diciamo, ha una particolarità rispetto agli istituti superiori. Mi viene a mente i Buzzi, ecco, cioè, diciamo che ci sono, magari più che a Firenze, ci sono scuole che sono già propedeutiche, diciamo, per entrare in un mondo del lavoro che poi è, diciamo, caratteristico della zona di Prato. Ecco, ci può fare un po' una panoramica, ecco, delle scuole di Prato, magari anche un po' un parallelo o una differenza rispetto a quelle di Firenze, ecco. Allora, diciamo che sostanzialmente le scuole di Prato che vengono prese in considerazione sono 4/5. Abbiamo il liceo Copernico, che è un linguistico e anche scientifico, oltre che il Livi, però il Copernico, diciamo, è il liceo più gettonato, no? Dove vengono indirizzati i ragazzi che alle medie vengono ritenuti veramente bravi. Dopodiché c'è l'Istituto Tecnico Buzzi, che è nato sulla realtà pratese, cioè sul tessile pratese. In effetti da tantissimo tempo non è soltanto scuola, ma anche un laboratorio conto terzi accreditato per fare analisi su tessuti. Una sorta di alternanza scuola-lavoro ante litteram. Anche se nel laboratorio ci operano più docenti dell'istituto rispetto a ragazzi, però sicuramente sì, perché i ragazzi comunque fanno analisi e quindi in un certo senso hanno anticipato quella che poi è l'alternanza scuola-lavoro. Una scuola che continua ad essere una scuola di elite, cioè le bocciature sono numerosissime, e continua ad essere una scuola che è un tecnico, ma un tecnico ritenuto piuttosto difficile come formazione, come, diciamo così, target di studenti e preparazione, specie in quelle che sono le materie, diciamo così, legate al mondo della chimica, al mondo della tessitura. E molto spesso, purtroppo, ragazzi che vengono, passatemi il termine, stroncati in malo modo al Buzzi, ripiegano sul Datini. Quindi accogliamo un'utenza che molto spesso è demotivata, perché in altre scuole si è sentita dire: vai al Datini perché non capisci niente, vai al Datini perché non sei adatto, non sei idoneo per questo tipo di scuola. Poi c'è il Gramsci Keynes, che è una buona scuola, perlomeno fino alla gestione, diciamo, della preside, che quest'anno però è andata in pensione, della preside Tempesti, che ha sempre garantito una buona offerta formativa ai ragazzi nel rispetto delle singole individualità. Infatti è bello, no, entrare alla Gramsci, scuola dove io ho collaborato su progetti, e fanno un parallelo con il Datini, perché uno si accorgerebbe che in una scuola che è stata gestita per anni in maniera onesta ci sono le LIM in tutte le classi, e specie con il numero crescente di ragazzi affetti da dislessia, le potenzialità didattiche offerte da una LIM sono veramente notevoli, specie almeno per quello che riguarda le lingue straniere, che sono sostanzialmente la mia materia di insegnamento. Una scuola dove è piacevole entrare, perché la scuola è bella, la scuola è accogliente, ci sono pale al soffitto, per cui durante, insomma, il periodo caldo i ragazzi non muoiono di caldo in classe. Nulla di tutto questo al Datini, anche se le entrate del Datini sono molto molto molto superiori rispetto a quelle del Gramsci Keynes. Ecco, invece ti volevo chiedere quelle che sono tuttora le tue denunce rispetto alla situazione che si sta configurando nella tua scuola. Ma prima ti volevo chiedere una panoramica, ecco, un intervento un po' più articolato su quella che è la composizione degli alunni, la composizione studentesca della tua scuola, visto che Prato, tra l'altro, come città c'è una grossa componente extracomunitaria. Nella mia scuola il numero dei ragazzi stranieri è elevato, è stato più elevato negli anni passati quando c'era l'indirizzo economico, perché c'erano anche un numero sempre crescente di ragazzi provenienti dalla Cina, ragazzi e ragazze cinesi, che ora invece preferiscono il Dagomari, essendo stato spostato lì l'indirizzo economico. Comunque da 2 anni a questa parte si sta registrando un incremento di nuovo delle iscrizioni di ragazzi cinesi e cinesi nelle classi dell'alberghiero. Poi abbiamo tantissimi studenti e studentesse di origine albanese, tantissimi studenti e studentesse di origine rumena, stanno sempre più arrivando ragazzi di origine africana, quindi è una scuola letteralmente multietnica. E appunto prima abbiamo accennato, ho accennato a un fatto, delle denunce rispetto a quello che sta succedendo alla tua scuola, ce ne vuoi parlare? Le denunce da me fatte sono tante e diciamo le prime denunce risalgono all'aprile 2014, dopo che avendo fatto alcuni interventi in collegio docenti, alcuni interventi a livello sindacale, la situazione non cambiava. La situazione alla quale mi riferivo è il bar interno alla scuola, la sala ristorante, e nel bar viene fatto anche un ristorante veloce sui pranzi. Ora, per chi non tocca... Perché c'è mattina e sera? C'è anche il serale nell'istituto Datini, sì. Sì. E uno studente fa sia la mattina che la sera. Il serale vede in esercitazione i ragazzi del serale, ma il ristorante e il bar non è aperto in orario serale. È aperto invece il bar la mattina, a disposizione di tutto il personale della scuola, non dei ragazzi. Quindi si parla di circa 220 persone che operano all'interno dell'istituto Datini, tra docenti, docenti di sostegno, personale ATA, quindi impiegati, tecnici, collaboratori scolastici. Immaginiamoci cosa possono essere circa 200 colazioni somministrate ogni mattina, dove non ci sono costi di manodopera, perché nel bar della scuola operano comunque i ragazzi che sono in esercitazione, gli insegnanti tecnici che sono pagati dal Ministero, ed essendo l'edificio della provincia non ci sono costi di luce, gas, gestione, tutto quello che magari un bar esterno può avere come costo. Inoltre in questo bar piccolo ristorante, vengono somministrati a tutt'oggi pranzi. Poi c'è la grande sala, diciamo così, attigua alla cucina, dove vengono organizzati pranzi e dove il dirigente scolastico ogni poco organizza grandi cene con svariati personaggi delle istituzioni, che possono essere politici, che possono essere membri del clero, non ci siamo fatti scappare neanche il Papa quando è venuto a Firenze, che possono essere polizia, carabinieri, che è quasi ironico, essendo il dirigente scolastico Daniele Santagati una persona che ha subito più processi, vinti, caduti in prescrizione, e quindi insomma abbastanza ironico che poi ogni poco ci siano i ragazzi della nostra scuola che servono le forze dell'ordine, che in questo momento invece vanno a braccetto con il dirigente scolastico. Fino all'aprile 2014 tutta questa gestione era totalmente a nero. Cosa vuol dire? Venivano stampate delle tesserine, delle quali io chiaramente ho degli esempi perché mi sono riservata di tenerne qualcuna e non darne tutte alla Guardia di Finanza. Venivano stampate nell'indirizzo grafico, poi da una ditta esterna, tesserine appunti del valore di 10-20 euro che venivano pagate cash, cioè con soldi in contanti, all'assistente tecnico che era in servizio al bar, il quale poi a fine, diciamo così, giornata andava in presidenza con una bella paccata di soldi. Non c'è mai stata neanche una rendicontazione fittizia, cioè a parte che all'interno della pubblica amministrazione non si può muovere neanche letteralmente un centesimo, immaginiamoci che una marca da bollo non può essere venduta. Scusa, e questi soldi a chi andavano? Questi soldi, la spiegazione data dal dirigente scolastico è che venivano reinvestiti sull'alberghiero, quindi per comprare in sintesi il materiale con il quale i ragazzi cucinavano e le bevande con le quali diciamo facevano esercitazione in sala. Peccato che però diversi ragazzi, per esempio di sala, sotto esame di Stato, siano stati costretti a comprarsi il materiale se volevano fare qualche cocktail particolare, perché si sono sentiti dire che la scuola non aveva soldi per comprare determinate tipologie di materiale. Tutto ciò fino al 2014. Tutto ciò fino al 2014. Dal 2014 in poi, dopo l'esposto in Guardia di Finanza, dopo che la Guardia di Finanza non si è mossa, non solo su questa cosa, perché io denunciavo altre cose, tipo l'entrata in maniera anomala della ditta di distributori automatici Mabel, in maniera anonima, perché non era visibile una gara d'appalto, quindi come è arrivato Sant'Agati ha fatto portare via le macchinette della vecchia ditta, è entrata dopo poco questa Mabel, che sta gestendo tra l'altro le altre due scuole, cioè Dagomari e Gramsci Keynes, del polo scolastico. Non sappiamo come appunto sia entrata, attraverso quale gara di appalto, e non sappiamo a tutt'oggi, malgrado le continue richieste fatte dalla sottoscritta, la percentuale che la ditta Mabel riversa sulla scuola, perché quando ci sono distributori automatici all'interno di una scuola, una parte dei proventi deve essere destinata alla scuola stessa. Questa è una normativa, purtroppo al Datini non ci è dato di sapere questo. Ci è dato sapere però che i prodotti, pur essendo forniti dalla stessa ditta, costano quasi il doppio rispetto a quanto costano al Dagomari e quanto costano al Gramsci Keynes. Non soltanto questo, il Datini ospita tantissimi progetti da sempre, molto spesso finanziati con fondi europei che poi arrivano in regione, che poi arrivano in provincia, che poi arrivano al Datini. Progetti fasulli, passatemi il termine, perché scopo della maggior parte di questi progetti dovrebbe essere quello di rimotivare i ragazzi che lasciano gli studi prima di aver conseguito il diploma di maturità a tornare a scuola, oppure, se proprio i ragazzi sono refrattari alla scuola, cercare di inserirli in un percorso lavorativo. Non c'è mai un feedback, cioè non c'è mai un resoconto di quanti ragazzi a fine di un progetto della durata di 2 anni siano tornati a scuola o siano stati inseriti nel mondo del lavoro. Dopo tante proteste, qualcosa, non tutto, Sant'Agati ha tirato fuori. Si sa che alcuni di questi progetti sono stati erogati dalla regione all'istituto Datini o dalla provincia, 120.000 euro, 220.000 euro, eccetera, per proporre poi ai ragazzi la stessa situazione di aula, quindi lezioni fatte in aula, dopodiché percorso lavorativo, quindi l'alternanza scuola-lavoro che poi la 107 ha abbracciato e esteso a ogni ordine di scuola. Faccio un passo indietro, mi ha parlato di proteste, come si sono articolate? Le proteste si sono articolate attraverso appunto esposti fatti in Guardia di Finanza, dove io sinceramente detto mi sono sentita molto presa in giro, cui mi sono riservata di trattenere un po' di materiale comprovante, e molto presa in giro perché di fronte ai due finanzieri che hanno accolto la mia denuncia mi sono sentita dire: ah professoressa, noi siamo Guardia di Finanza, settore pubblico, ma mai ci saremmo immaginati che in una scuola potessero girare così tanti soldi, ora manderemo tutto a Roma, poi l'ordine di intervenire arriverà da Roma. Era l'aprile del 2014, io ancora la Guardia di Finanza al Datini non l'ho mai vista. Però purtroppo dall'altro lato vedo costantemente intervenire le forze dell'ordine quando ci sono proteste da parte di studenti, da parte dei lavoratori, vedo volare manganelli, vedo teste spaccate, ma le istituzioni non intervengono, le forze dell'ordine non intervengono, nemmeno laddove le prove vengono fornite, non pur passatemi il termine, ma con documenti comprovanti, no? Che quindi dimostrano quello che io sto asserendo. E dopodiché i ragazzi, come ho detto prima, erano vessati dal dirigente scolastico perché imponeva ed impone a tutt'oggi quello che è il contributo scolastico volontario come tasse obbligatorie. Nonostante questo, diciamo, sia un fenomeno che si è verificato in tantissime scuole italiane, tanto che le Iene ci hanno fatto due trasmissioni sopra, nulla è cambiato all'interno dell'Istituto Datini, e addirittura fino al 2015 il dirigente scolastico inviava alle famiglie lettere di minaccia che sono state inoltrate al Tirreno, alla Nazione e pubblicate in parte, dove il dirigente minacciava la famiglia di procedere a delle sanzioni molto pesanti se la famiglia non avesse saldato anche gli anni antecedenti, cioè quando lui non era dirigente scolastico, e minacciando apertamente di non ammettere il ragazzo all'esame di Stato, di non farlo scrutinare, di escluderlo dai laboratori, quindi dalle attività di sala cucina negli anni seguenti. La riduzione delle attività, eccetera, eccetera. Eccetera, eccetera, sì, sì. Nonché l'impossibilità di essere scrutinati. Allora, io non sono un avvocato, però ci vuol poco a capire che siamo di fronte a un reato che va sul penale, si chiama estorsione, quindi insieme al sindacato Unicobas e all'avvocato di cui si avvale il sindacato Unicobas abbiamo fatto un esposto in Procura della Repubblica fornendo documentazioni, fornendo testimonianze, ma anche questa volta siamo giunti al 2018 senza avere nessuna verifica, senza che nemmeno un ispettore scolastico si sia degnato di venire a scuola a parlare con ragazzi, famiglie, garantendo loro la tutela, perché poi quello che spesso avviene è che ragazzi e famiglie si sentano minacciati, hanno paura, infatti arrivano lettere anonime come questa che sto fornendo, ma anonime, perché di fronte a un dirigente scolastico che minaccia di non ammettere agli esami, di bocciare e quant'altro, di fronte a un'utenza che non ha la forza economica e spesso anche culturale per potersi difendere, il risultato è che si continua a mangiare tantissimi soldi che potrebbero invece essere destinati a tutt'altro, e a una scuola che funziona, a una sanità, a un'edilizia popolare. Ci fermiamo un attimo, ci sentiamo un pezzo musicale, sono i Clash, il pezzo si intitola riconoscibilissimo London Calling. Boys and girls, London calling. Now don't look to us, phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things. The ice age is coming, the sun's zooming in, meltdown expected, the wheat is going thin. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in, engines stop running, the wheat is going thin, a nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning. stopping it. Engine stopping it. The wheat is good. A nuclear arrow. But I have no fear. Cause London is down and I live by the river. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Now get this. London calling, yes, I was there too. And you know what they said? Well, some of it was true. London calling at the top of the dial. And after all this, won't you give me a smile? London calling. I never felt so much alike, alike, alike, alike. Quindi ci dicevi, sono state fatte queste denunce alla Guardia di Finanza e successivamente la Procura. Procura della Repubblica. 2014-2015 ribadite e a oggi ecco, è stato è tutto successo? Insabbiato perché non è successo niente, ma non è nemmeno arrivata una comunicazione malgrado che si sia richiesto con l'avvocato di avere notizia, quindi se la denuncia fatta in Procura della Repubblica soprattutto non c'erano gli estremi per essere accolta. È stata accolta, nessuno si è degnato di rispondere, nessuno si è degnato di fornire una spiegazione, perché ad oggi nessuno si è venuto a effettuare dei controlli, delle verifiche e come mai Sant'Agati sia così protetto da rimanere al suo posto, anche perché si sta parlando di una persona che è stata condannata in primo grado per turbativa d'asta quando era rettore al convitto Cicognini, poi anche lì non si è saputo lo sviluppo della vicenda, processi caduti in prescrizione, condannato per danno erariale per aver distrutto, quando era sempre rettore al convitto Cicognini, una statua, ironia della sorte, di Francesco Datini, condannato dalla Corte dei Conti al risarcimento erariale per danno erariale di 100.000 euro, un paio di mesi fa ha ricorso e vinto, non si sa come, perché insomma, all'interno della pubblica amministrazione non è che si possa distruggere qualcosa. Finito sui giornali per essersi appropriato in maniera indebita di televisori e quant'altro erano al convitto Cicognini, trovati a casa sua, dice, li aveva portati durante dei lavori di restauro all'interno dell'istituto e poi si era scordato di riportarli indietro. Quindi queste denunce, nonostante siano precise, insomma, se fossero verificate passibili di un processo abbastanza pesante, ecco, si è preferito insabbiare, diciamo, si è preferito non andare avanti invece che verificare fino in fondo sì, cosa è successo. Non vi è stato dato neppure torto. Ecco, neppure torto, nessuna risposta, e ormai sono passati insomma, diversi anni, per cui insomma uno dice anche no, nella lungaggine burocratica, insomma, non esageriamo, insomma, sono passati 4-5 anni, insomma, inizia ad essere un tempo di indagine molto insomma, notevole. Ecco. Passando poi l'aspetto più generale, ecco, il Datini, così come altre scuole di Prato, come altre scuole in tutta Italia, una scuola professionale, ecco, e in cui è presumibile che il peso, diciamo, dell'alternanza scuola-lavoro sia magari più presente, ecco, che magari nei licei, o comunque, ecco, come si sta sviluppando nella vostra scuola, nel concreto? In maniera allucinante, perché nel biennio i ragazzi fanno esercitazione all'interno della scuola, quindi non fanno che perdere, almeno a gruppi, attività didattica in classe. Quando poi arrivano al terzo anno, quindi il terzo anno è l'anno di specializzazione, no? Diciamo nel biennio i ragazzi fanno sia sala, sia cucina che ricevimento. Il terzo anno invece devono fare la scelta per cui o fanno sala, o fanno cucina, o fanno ricevimento. Quindi diciamo è un anno professionalizzante, durante il quale i ragazzi vanno in alternanza in aziende esterne, chiaramente ristoranti e pizzerie pratesi. Ma la cosa che lascia veramente allibiti è che questi ragazzi vengono mandati a lavorare gratuitamente sotto le vacanze di Natale, sotto le vacanze di Pasqua, in orario serale, quindi anche pericoloso da un lato per chi si muove in motorino, per esempio, oneroso per chi ha una famiglia che invece si va a riprendere il ragazzo o la ragazza a mezzanotte, l'una, la notte. Magari sono anche minorenni. Minorenni, perché in terza si hanno, diciamo così, se non hanno, se non sono mai bocciati, quindi se non sono ripetenti, hanno al massimo compiuto 16 anni, per cui sono minorenni. Poi in quarta vanno nel periodo estivo, cioè io ho la mia quarta accoglienza per esempio quest'anno, che il 27 di maggio finisce la scuola e va a farsi un mese come minimo di alternanza scuola-lavoro non pagato, e quelli più bravi poi sono ingaggiati dai poteri economici, in che senso che dai rimanimi a lavorare, no, a nero, 4-5 euro l'ora, quella che è la quinta sala di quest'anno, che era la mia terza sala con la quale avevo un ottimo rapporto e quindi ha pensato bene il dirigente di togliermela come classe, visto che c'era una grande simbiosi tra me, i ragazzi e anche i genitori, ho visto i ragazzi con le galle ai piedi, perché sono stati sfruttati 11-12 ore a lavorare, con una spada sempre di Damocle sulla testa quando sono in alternanza scuola-lavoro, perché una relazione negativa del tutor aziendale, così definito, può compromettere la valutazione dell'intero percorso professionalizzante, per cui questi ragazzi chiaramente sono terrorizzati e ho il ricordo per esempio di due ragazze che quest'anno sono in quinta, che bene si sappiano queste cose, sono state mandate in alternanza perché brave al Principe di Piemonte a Viareggio, messe a dormire in una specie di sottosuolo in mezzo a ragnatele e quant'altro, messe a lucidare bicchieri posate, però con la pretesa che indossassero tacchi mentre facevano questo lavoro di manovalanza, 11-12 ore di lavoro al giorno. Dopo una settimana non ne potevano più, una di queste ragazze si è sfogata con la mamma ha detto ferma, prendo un permesso al lavoro, domani vengo a prenderti, erano minorenni, detto ciò al direttore del Principe di Piemonte, questo gli ha detto se andate via allora stanotte non potete dormire qui, no? Quindi la mamma si è fatta il viaggio la sera per andarsi a riprendere la figlia e l'amica della figlia, trovate con le galle ai piedi, perché appunto tante ore di lavoro in piedi, con la pretesa però che indossassero i tacchi, senza retribuzione, senza nemmeno la dignità di essere accolte in una camera che fosse una camera. Ecco, prima ha parlato di un numero di frequentanti, la scuola è un migliaio? Sì, più di 1000, siamo a più di 1000 ragazze. Quindi, tra... E tutti questi prima o poi effettuano queste ore di lavoro, quindi se si va a quantificare alla fine sono migliaia di ore di lavoro a nero, o meglio, più che a nero, non pagate, non a nero, non pagate. Non pagate, e poi quello che a me inquieta è che io prima di insegnare ho lavorato nelle reception degli alberghi, quindi ho visto un po' com'è il mondo che si muove, no? Dietro agli hotel. Diciamo che ci sono tanti lavoratori così definiti stagionali che fino a oggi sono riusciti a sopravvivere perché magari lavorano da maggio a settembre negli hotel, soprattutto diciamo così della costa, poi riescono diciamo così a lavoricchiare in città sotto le vacanze di Natale, sotto le vacanze di Pasqua, quando diciamo il settore della ristorazione è in crescita. Per cui io mi sto chiedendo tutta questa alternanza obbligatoria che è ricaduta anche sul mondo del lavoro. Cioè, che toglie, toglie posti di lavoro. E tempo fa, per esempio, parlavo con un compagno di lotta, diciamo così, e lui mi diceva, te le insegni al Datini, lo sai che io faccio servizio non catering, lui sta studiando all'università. Dice, da quando il vostro preside manda i suoi studenti dal Datini a lavorare nel nostro catering gratuitamente, meno della metà di noi vengono chiamati e quindi pagati, perché ci sono i neoschiavi che non solo non sono retribuiti, ma devono lavorare anche bene, perché sennò il tutor gli fa una relazione negativa. Ecco, qui c'è una sorta di sostegno, di appello, di presa di posizione da parte studenti, studenti genitori. E genitori che hanno avuto il coraggio di firmare perché indignati da quello che sempre più stava accadendo, ma nonostante denunce anche inviate alla stampa, diciamo principalmente letta su Prato, quindi Tirreno e Nazione, non hanno avuto seguito. Così come non ha avuto seguito, diciamo così, una interrogazione, quale sono stata contattata dopo che la vicenda è venuta fuori sui giornali, per cui hanno fatto una interrogazione in regione, ma anche l'interrogazione fatta dalla forza politica e oggi risulta essere, tra virgolette, vincente, scusatemi l'ironia, non ha portato a niente. Ecco, le prossime iniziative rispetto a questa situazione qui? Ma a me piaceva fare una cosa non autoritaria, quindi mi piaceva a questo punto incontrare chi sta lottando in ogni settore, perché penso che comunque si stia tutti dalla stessa parte della barricata, e quindi mi piaceva fare un incontro in breve, quindi il 2 di maggio in Polveriera. La mia intenzione sarebbe quella di consegnare gli esposti. Polveriera a Firenze, intendi? Sì, sì, Polveriera a Firenze, perché, diciamo così, essendo in una zona centrale, immagino che sia facilmente raggiungibile un po' da tutti, soprattutto dagli studenti che molto spesso, insomma, non sono automuniti. E la mia intenzione era quella di dare gli esposti fatti alla stampa e alla cittadinanza, quindi a chi passa passa, chiedendo per una volta noi, come mai, di fronte a determinati poteri, coloro che sono sempre pronti a intervenire, manganellare, sciacquarsi la bocca con la parola legalità, non intervengono. Sciacquarsi la bocca con la parola legalità perché poi, per assurdo, all'interno delle scuole si spendono anche un sacco di migliaia di euro per progetti ora obbligatori educare alla legalità. E questa è la legalità. La legalità è anche di non dare seguito, non intervenire, non indagare rispetto a una denuncia fatta con elementi, insomma, provati, ecco. Con elementi provati, perché non è appunto un pourparler, non è un'antipatia mia personale verso il dirigente scolastico, sono documenti che comprovano, no? Nero su bianco, circostanziati, siglati da un dirigente scolastico. Ci sono circolari ministeriali che ribadiscono quello che è il concetto di contributo volontario. Ci sono due leggi, la legge 190-2012 e il decreto ministeriale 33-2013, che obbligano ogni pubblica amministrazione a rendere pubblici e noti alcuni dati. Se vi fate una giratina sul sito del Datini, tutto questo c'è, albo trasparenza. Peccato che poi, quando si va a cliccare sulle voci, nel 70% dei casi appare un 404 pagina non trovata, no? Oppure pagina in via di allestimento. Ora, dal 2012-2013 al 2018, e ancora, insomma, si sia in via di allestimento, insomma. Ecco, giusto per puntualizzare, fino al 2014, rispetto alla questione mensa, ristorante, via dicendo, c'era una certa situazione. Successivamente, ora io non frequento il bar della scuola né tantomeno il ristorante, però queste tesserine vengono vendute attraverso bancomat o carta di credito. Quindi è una situazione simile, insomma. Però lo stesso, non si sa quanti soldi entrano, così come non è rendicontato il contributo volontario che però il dirigente impone delle famiglie. L'anno scorso a settembre ha tirato fuori una circolare dove dichiarava che dalle famiglie erano entrate 122.000 euro, dichiarato così, senza un bilancio, senza il rispetto della legge, che appunto, dico, bastava l'anno scorso fare un parallelo con l'istituto Gramsci-Keynes per vedere come andava rendicontato il contributo scolastico, dicendo che il 10% di questi soldi, quindi 12.000 euro, io sono, insomma, un asino a matematica, ma insomma fino a una percentuale di questo tipo ci arrivo, da destinarsi per sostenere i ragazzi più deboli, cioè che non potevano comprarsi libri o le divise. Peccato però che nulla venga fornito, o perlomeno devi pagare almeno 50 euro, che lui chiama assicurazione. Peccato che il bando dell'assicurazione ne preveda 7 di euro e non 50, perché altrimenti non puoi usufruire né del comodato d'uso, né, dice il dirigente scolastico, partecipare a viaggi di istruzione l'anno seguente. Si sta parlando di una persona che offende i ragazzi, chiaramente i ragazzi anche questo non hanno il coraggio di denunciarlo, li chiama morti di fame se non partecipano alle gite che lui decide. Si dovrebbero chiamare viaggi di istruzione, perché ci dovrebbe essere un fine didattico, ma da quando c'è lui alla dirigenza questo fine didattico sempre più manca, e si permette di offendere, fare conti in tasca alle famiglie. Chiaramente i ragazzi sono terrorizzati, non hanno il coraggio di denunciare, e quindi questo malcostume continua. Ecco, ti volevo chiedere, questa documentazione è consultabile online, oppure ecco, uno deve venire a una conferenza stampa o comunque, ecco, come... Gli esposti fatti, chiaramente le lettere di minaccia inviate alle famiglie non sono online. Online c'è qualcosa sui bilanci, che però è molto offuscato, così come sulle gare d'appalto ora sta pubblicando qualcosa, ma anche quello è molto molto molto discutibile. Finisce qui la nostra intervista, la nostra, non chiacchierata, il nostro ascolto di una denuncia rispetto a una situazione particolare di una scuola, altrettanto particolare, Datini di Prato. Ricordiamo, siate all'ascolto di Radio Wombat e in particolare di Passaggio a Nord-Ovest, e che la trasmissione la state ascoltando alle 14.30, cioè nel senso che va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.30, e eventualmente se avete perso una parte o se vi interessa e non l'avete ancora, non l'avete ascoltata, la potete riascoltare andando alla pagina podcast di Radio Wombat, dove c'è appunto i podcast di Passaggio a Nord-Ovest, quindi anche di questa trasmissione, e chiaramente i podcast di tutte le trasmissioni di Passaggio a Nord-Ovest. Vi salutiamo, ciao ciao. Ciao